Attenzione Antonio. Già tu sei. Chi è che chiama Antonio? Attenzione Antonio. Però avanti, dimmi. Qua se sto uscendo bene. C'è una radio normale, c'hai, ti sento bene. Ma so che chiama mia sorella. Non ho capito nulla, esce una trombetta, esce. Ma ragazzi, mi fai certo. Ma chi è? Porca sana. Chi è adesso? Sei matto al paese. Io sono io, sono per il vicino. Non è per il mio paese. Hola. Ciao, tu sei? Sono io, dimmi. Sei scende con un microfono a trombetta. Scusa, non ho capito che mio figlio stava trascinando il banchetto, ripete. Aspetta, che stai uscendo con la voce a trombetta? È impossibile, è impossibile. Ma tu faccia comprenditi. Ma l'apparecchio è buio, non Romeo. È impossibile perché questo c'è bene l'apparecchio. Se no io mi riascolto, mi aspetto. Se mi siete di rifaure. Ascolta, com'è questo il microfono? Chiara la voce? Sì, chiarissima. Prova. 1, 2, 3, vedi che io mi sento benissimo. Come fa? Ora 1, 2, 3, prova. La voce a trombetta è impossibile. Stai anche fischiando adesso? No, ho acceso l'altro apparecchio. Vabbè, io ho messo a posto l'MP5, ho messo a posto. Guarda, mi sto riascoltando, mi sto. È impossibile la voce a trombetta. Cosa vuoi, Gabriele? Mamma mia, che ciubicino. Beh, Anto, ci sentiamo più tardi. Andiamo a pigliare la signora. Ci risentiamo. Ciao, ci sentiamo. Hola. Prova radio 1, 2, 3, 4.